Hadith numero 33 da Ibn Abbas, che Allah si compiaccia di ambedue, è stato riferito che l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse: se la regola fosse che ognuno ottenga in base alla sua semplice richiesta, certamente degli uomini pretenderebbero i beni di una grande moltitudine di uomini e anche il loro sangue. Per questo la prova è a carico dell'attore e il giuramento a carico di chi resiste. Hadith buono, l'hanno riferito al-Bayhaqi e altri in questa forma, e una parte di esso è nei due Sahih, quello di al-Bukhari e di Muslim.